Oggi è mercoledì? Sì. Molto bello. Moderna. Moderna, musica moderna, Drago. Musica moderna. Chiedo asilo. Ma com'è Natale? È Natale, Drago. È il 6 giugno, Insomma, tanto per festeggiare qualcosa, non c'è niente qui. Insomma, Maya, che i Maya hanno ragione. Sai che non ci arriviamo a Natale. Non ci arriviamo festeggiamolo proprio, prima. Sì. Festeggiamolo prima, però anzi, festeggiamo delle cose che sono successe davvero il 6 giugno. Cosa dici? Cos'è tipo, successo il 6 anzi, giugno? Sta succedendo adesso che Venere sta transitando davanti al Sole. Vedi, roba di Maya, però, no? Sì, non sono cose importanti. L'importante è che 40 anni fa, il 6 giugno 1972, usciva The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars di David Bowie. Ecco, bravo Drago, hai consultato la pagina del 6 giugno di Wikipedia. O Wikipedia. Comunque Drago, non lo fanno nemmeno nelle radio locali sta roba qua. Cioè, hai capito, quelle che si sentono solo nel condominio. Non lo fanno. Quindi di cosa parliamo oggi? Oggi che giorno è? 6 giugno? Andiamo a vedere cos'è successo. Voglio vedere te, Kappa, ogni giorno inventare qualcosa da dire. 6 giugno. Sì, Drago, ma i 40 anni di Ziggy Stardust non sono mica roba d'asilo. Ma perché, scusami, 40 anni fa tutti i bambini, i ragazzini inglesi scoprirono un nuovo mondo fatto di make-up, vestiti improbabili e capigliature femmine. Insomma, nasceva lo stile unisex. Sì, ma tu chiedi a un bambino di oggi chi è David Bowie. Vediamo cosa ti dice. E ora, bambini, ricreazione. Bambino Alberto, allora, ma tu lo sai chi è David Bowie? Sentiamo. Vediamo. Certo. Visto? Chi l'avrebbe mai detto, però anche i bambini di oggi sanno chi è David Bowie. Vabbè, perché David Bowie è il cantante dei tempi dei miei genitori, no? Sì, già hai indovinato, giusto, bravo. Ma non è che ho indovinato, lo so. E ti piace David Bowie? Certo che mi piace. Io sento sempre le sue canzoni. Alla tua età, vabbè, complimenti allora, sì. Perché sei precoce, di solito alla tua età si ascoltano le canzoni dello Zecchino d'Oro, dei cartoni animati, quelle cose lì, invece. Vabbè, ma io ascolto anche quelle, non faccio mancare niente. Faccio delle compilation, no? Ecco. Per lo smartphone. Sì. E ci metto David Bowie, Cristina D'Avena, Capitan Carlo. Capito? Chi? Capitan Carlo, no? No, Capitan Carlo. Guarda che è Capitan Harlock, mica Capitan Carlo. Capitan Carlo. No, Harlock. Harlock, che poi sembra Carlo. Vabbè. La canzone comunque fa così, quindi. Sì, no? Vabbè, lasciamo perdere. Che cosa sai di David Bowie? Vediamo un po'. Dai, allora. Allora, conosco le copertine dei dischi. Bravo. Perché miei hanno ancora i padelloni. I padelloni. Quella roba rotonda di plastica che metti su. Sì, sì, i vinili. Non come CD, vinile, capito? Sì, sono i dischi di vinile. E questi qui c'hanno delle copertine. Sono belle, copertine degli anni 70-80 sono spettacolari, no? Sì, sono belle. Certe fanno anche paura, C'è anche quella, c'è quella di David Bowie, no? Quella è inquietante, dove sembra un manichino spastico. Ma cosa dici? Sì, cioè, è quella dove lui è messo con le mani messe come un manichino, lo sguardo allucinato, no? Ma Heroes, ma la copertina di Heroes. Esatto. Quella è bella proprio perché lui sembra un manichino spastico. Ma vabbè, ma che manichino spastico? Poi c'è quella dove lui, dove lui sembra morto. Schiacciato, caduto sì, un palazzo. Sì, quella è Lodger, bravo, vedi che le conosce Lodger. Le copertine. Sì. E poi c'è una che mi fa paura. Sì. È quella dove lui è una specie di lupo, no? Lupo. Tutto disegnato come un lupo. In mezzo a un branco di uomini lupo, no? Cioè lui lupo e uomini lupo. Uomini? Uomini lupo. Uomini lupi? No, uomini lupo, come si dice? E uomini lupo? Vabbè, Diamond Dogs comunque, copertina del disco. Diamond questa. Dogs. E comunque... E lì in quel disco lì c'è il pezzo che mi fa impazzire più di tutto. Adesso canti. Che è quello che fa. No, lo faccio per accennare, no? Dai. Rebel, kill the night. Rebel, kill save the fight. Rebel, kill the song. Alpha, I love you so. Bravo. Diciamo che non sono parole, non sono giustissime. Beh, concentro le parole, basta fare, cioè l'importante è il mood, no? Ma io poi comunque sono un bambino, cioè come faccio a sapere l'inglese? È già tanto che ogni tanto ci metto dentro qualcosa tipo fight. Fight è... Che vuol dire? No, non lo so, però so che esiste, no? Sì, fight. Fight. Vabbè. E poi sono un bambino e non sono un inglese, no? Meno male, se no al mattino ti toccava mangiare il porridge. Cosa? Niente. Non esiste nessun K, è morto da più di 40 anni. Cosa? cosa? È morto. Chiedo asilo. La nazionale di calcio, no, composta, no, dai, no, silenzio. Allora, no, la nazionale di calcio, calcio, no, che ha anche dei bambini tipo Balotelli e Cassano al suo interno, sta per cominciare gli europei in Polonia e Ucraina. E come al solito, prima delle manifestazioni importanti, in Italia scoppia uno scandalo scommesse. Però la colpa stavolta non è di Balotelli, nemmeno di Cassano. I due enfant terribles sono innocenti, perché loro combinano solo marachelle innocue. Mentre sembra che gli altri compagni, certi altri compagni loro, vendessero le partite. Poi magari sono tutti innocenti, però Criscito e Bonucci sono coinvolti. Chi? Ma per te, arabo, K, Criscito e Bonucci sono due fortissimi difensori della nazionale italiana. Ma Collovati gioca ancora? Collovati? Sì, gioca con Bonie, che gioca chi dice più cazzate in televisione. E vince sempre Bonie. Ovvio. Comunque, la nazionale è cambiata dai tempi di Collovati, caro K. Interessante. Ti ricordi Causio e Zoff che giocavano a scopone con Pertini sull'aereo di ritorno da Madrid? Sì, qualche anno fa le foto. 30 anni fa. Ah, 30 anni fa. Vabbè. Yes. E allora. Cosa? Presto, Tenente Drago! Siamo finiti in una bolla spazio-temporale! Accidenti! E adesso? Adesso dobbiamo uscirne, Tenente Drago! Ma in che senso siamo finiti in una bolla spazio-temporale? Nel senso che siamo nel futuro! In nazionale non giocano più Collovati, Tardelli, Causio, Paolo Rossi! No! C'è gente come Criscito, Sirigu, Di Natale, Bonucci! Tenente Drago, si rende conto? Certo, Criscito gioca in Russia nello Zenit, Sirigu in Francia nel PSG, Di Natale nell'Udinese e Bonucci nella Juventus. Tenente Drago, la smetta di delirare e mi aiuti a riportare in tempo indietro ai tempi di Rummenigge, Zico, Mario Kempes. Comandante K, se tornassimo a quei tempi, saremmo poi troppo giovani per essere un comandante e un tenente. Al massimo potremmo essere il capoclasse e il vice capoclasse di qualche istituto tecnico. Tenente Drago! Lei rovina sempre le feste degli altri! Ma, comandante! Silenzio! In punizione! Comandi! E cosa fa l'imparato, Tenente Drago? In punizione! Dov'è la punizione? In fondo a destra! Grazie, comandante! E poi tira l'acqua! E lavati le mani! Porco! Tenente Drago! Sì, comandante K! One, two, three. Oh, would you like to swing on a star? Every moonbeam's home in a jar. And be better off than you are. Or would you rather be a pig? Pig. Così. Poi fai tutti gli animali, capito? Della settimana. Oh, would you like to swing on a star? Every moonbeam's home in a jar. And be better off than you are. Or ever would you rather be furetto? Furetto cosa fa? Boh. Puzza. Anche tu un po', eh? Why da ba ba ba bi da ba Why da bi ba ba bi da ba Why da ba ba ba ba ba ba Why da ba ba chiedo asilo.